mio cuore, le cose belle che ti voglio dire, tu solo amore mio dovrai sentire, le mie parole tanto appassionate. Abbassa la tua radio, per favore.